Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e quindi a tutti quelli che sono tornati al lavoro spero abbiano passato una buona Pasqua, chi ancora non è tornato e sta rientrando speriamo di tenere compagnia anche oggi. I temi di questa giornata economico-finanziaria: la giornata di borsa è positiva a Milano, a Parigi leggermente positiva a Francoforte ed è positiva anche a Londra, mentre l'America è negativa. Le cifre sono più 0,4% Milano e anche Parigi, più 0,1% Francoforte, mezzo punto percentuale di rialzo a Londra, l'America perde lo 0,20%. L'euro è di nuovo debole sul dollaro, a 1,338 e anche nei confronti del franco svizzero a 1,432. Per quello che riguarda i titoli, molto bene Tenaris, più 3,1%, ST Microelectronics più 2,3%, Prysmian più 2%, Saipem più 1,80%, Fiat più 1,70%, Parmalat più 1,6%, Luxottica e Atlantia e anche Buzzi Unicem guadagnano un punto percentuale. Chi perde? La Popolare di Milano meno 1,3%, Impregilo meno 1,2%, Mediolanum meno 1%, CIR meno 0,60% come Unipol e Campari. I temi di questa giornata, oltre alle borse, partiremo ricordando quello che è un'inchiesta, un insieme di commenti sulle riforme, sulle politiche per la ripresa, un insieme di commenti che sono apparsi su Sole 24 Ore a partire da appunto inizio aprile e utilizzando anche la chiave dell'export, perché secondo più di un osservatore i conti pubblici italiani per carità non sono messi bene, il 5% di deficit è la stima per il 2010, però sono messi meglio quanto a deficit della Gran Bretagna che va al 13%, della Francia che va all'8,5%, degli Stati Uniti che vanno oltre il 10%, per non parlare della Spagna che va al 14%, dell'Irlanda, e anche la Germania non se la passa benissimo. Il tema sarà appunto quali riforme e soprattutto quali atteggiamenti, aggregazioni, strategie devono tenere le nostre imprese per agganciare la ripresa che si sta profilando in maniera sempre più strutturata nelle economie emergenti, e lo dimostra il prezzo del petrolio che anche oggi è a $86,6 al barile, quindi alto. Il rame è ai massimi da 20 mesi e sopra gli $8,000 a tonnellata. Questo significa che la domanda di materie prime di questi paesi è tornata a crescere in maniera consistente. Se siamo ai massimi in prodotti come il rame da 20 mesi e anche nel petrolio siamo a livelli molto alti. Parleremo comunque delle materie prime dopo il commento di borsa e poi toccheremo il tema delle dimissioni di Massimo Capuano da numero uno della borsa italiana, ma soprattutto del fatto che nel consiglio che gestisce la borsa italiana e quella di Londra, le due borse sono infatti fuse ancora 2 anni fa, non c'è più un italiano. Capuano infatti rappresentava l'Italia, e allora noi che abbiamo quasi il 20% di questa società che unisce la borsa di Londra con la borsa italiana, non abbiamo nessun membro nel consiglio, e la cosa è stata letta, forse l'avrete letto anche i giornali su questo, come una sconfitta dell'Italia, della capacità dell'Italia di pesare su un tema delicatissimo come quello che è la borsa azionaria, nonostante l'Italia abbia delle dimensioni sicuramente più piccole rispetto a quelle della borsa britannica, ma lo stato di salute della borsa italiana quando è andata come dote alla borsa britannica nella fusione e tuttora è uno stato di salute migliore rispetto a quello della borsa inglese, che essendo più finanziarizzata con molti titoli finanziari bancari ha sofferto molto di più la crisi, e comunque resta sullo sfondo l'incapacità che ha avuto l'Italia come azione anche politica di mantenere la sua presenza nel cosiddetto consiglio di amministrazione delle due borse che si sono fuse. Non è un tema da poco, perché insomma gestire la borsa o rinunciare a una rappresentanza nella gestione della borsa come società a questo punto significa in qualche modo, secondo alcuni, il rischio di una ulteriore colonizzazione da parte britannica di quello che è il mercato azionario italiano. 349-238-6666 per i vostri sms. Altre notizie in breve, come sempre in apertura. petrolio e rame abbiamo già detto e vi torneremo. I prezzi della benzina tornano a salire dopo la tregua pasquale, citano le agenzie. Tregua, insomma, per modo di dire, tregua armata, pace guerreggiata, visto che abbiamo fatto una puntata anche venerdì scorso proprio sui prezzi della benzina e del diesel, fermi da 2 settimane ma aumentati fino a 2 settimane fa. Comunque sono tornati a 1,42 i prezzi. Kuwait ha ritoccato il prezzo di 1,5 centesimi portando la benzina verde a 1,425 euro al litro e il gasolio a 1,259 euro al litro. Rialzi anche per ERG, un centesimo, quindi la verde a 1,418 euro e il gasolio a 1,244 euro. E i Codacons, quindi una delle associazioni dei consumatori, fa il calcolo: stangata da 19 milioni di euro sul rientro delle vacanze, come stangata aggiuntiva, come frutto e conseguenza dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel. Non ho dato il numero per i vostri sms, avete ragione, 349-238-6666 per i vostri sms. Andiamo avanti con notizie in breve. Il traffico sulla rete di Autostrade per l'Italia nei primi 3 mesi del 2010 ha registrato un incremento del 2% quasi rispetto ai primi 3 mesi del 2009. Questi sono indicatori di cui ogni tanto parliamo, ce ne sono vari, dal tipo di spesa nei supermercati all'utilizzo dei cosmetici per le donne, al consumo dell'energia, alcuni più attendibili, altri un po' più così eterei, ma sono sempre indicatori di una ripresa in atto, seppur modesta. Un 2% dell'aumento del traffico autostradale va infatti in questa direzione. Principalmente infatti il traffico è aumentato sulla rete autostradale italiana per effetto della componente dei camion, dei veicoli, come si chiamano, pesanti a 5 o più assi, per cui insomma sembra che il trasporto merci sia ripartito, comunque sia cresciuto rispetto ai primi 3 mesi del 2009. A differenza di quanto è avvenuto in Francia e Germania, sono crollate le immatricolazioni auto nel mese di marzo in Germania, meno 26% rispetto all'anno prima, quando le vendite comunque erano state trainate dalle rottamazioni, dagli incentivi alla rottamazione. E chiudiamo col settore auto, perché Nissan oggi, dopo il caso Toyota, insomma, ha dovuto richiamare 25.000 auto in Giappone per un difetto al pedale dell'acceleratore. Anche qui, sempre il pedale dell'acceleratore. I modelli Sefiro, Bluebird, Sunny, Primera e Tino. Passiamo alla Grecia, perché secondo Eurostat, ossia l'Istituto di Statistica Europeo, la Grecia avrebbe un deficit più alto di quanto già stimato. Cioè, il caso greco è esploso quando si è scoperto che la Grecia aveva truccato i conti, aveva detto che il deficit era il 3%, invece era più alto, comunque, ed era il 12,7%. Sarebbe ulteriormente in crescita, cioè potrebbe essere nel 2009 superiore al 14% il deficit greco. E non a caso, nonostante le smentite del ministero greco, il differenziale tra il rendimento delle obbligazioni tedesche e quelle greche è schizzato a un livello record, il 4%, cioè costa il 4% in più alla Grecia chiedere soldi tramite l'emissione di bot sul mercato di quanto non costi alla Germania. Vabbè, un tema che a noi sta molto a cuore, i bonus dei manager del mondo della finanza americano. Allora, se è vero che da un lato gli amministratori delegati hanno avuto un taglio dei compensi in media, meno 15% nel 2009, ma a 9,5 milioni di dollari di media, per cui sono, questa è la media di quanto, preso quanto hanno preso gli amministratori delegati delle maggiori società quotate in America nel 2009, 9 milioni e mezzo di euro in media, sono volati i bonus e insomma i guadagni dei trader, di chi fa compravendita sui mercati finanziari. Pensate che nel 2009, nonostante la crisi, è staccato l'assegno più alto nella storia di Wall Street quanto a bonus dei trader finanziari e delle società finanziarie. Per 38 società, le maggiori, 140 miliardi di dollari di bonus e benefit vari, contro i 123 miliardi del 2008 e i 137 del 2007. Cioè, nonostante la crisi, hanno guadagnato di più. Allora, e bonus anche per, ma ne parleremo più avanti, ripeto, per l'ex numero uno della borsa italiana, l'amministratore delegato uscente che se n'è andato, Massimo Capuano. Non abbiamo ancora i dati a disposizione, lo battono le agenzie, però compensi e bonus per alcuni milioni di euro e migliaia di azioni del London Stock Exchange, e anche benefit aziendali, tra cui una casa a Londra, per consentire a Capuano di dividere il tempo di lavoro in modo uguale tra Gran Bretagna e Italia. Quindi uno potrebbe fare la battuta: la fusione tra Londra e Milano ha impoverito Piazza Affari, ma non Capuano. Questo lo scrivono le stesse agenzie. Vi torneremo alle 18:10. Adesso, primo tema, le riforme per la ripresa, le riforme necessarie, un tema che sta cavalcando Sole 24 Ore con articoli e commenti in prima pagina, e anche le tendenze del nostro export. Riforme necessarie, quindi, conti pubblici, ma anche l'ultimo dato sull'export, che dimostra un export che è tornato a crescere, più 1% al massimo dal 2008. Io ricordo che, chi già scrive al 349-238-6666, che il nostro export è crollato del 20% l'anno scorso, ma quest'anno è previsto in crescita tra il 4 e il 4,5%. E allora parliamone con chi ne ha scritto anche sul Sole 24 Ore, ossia il professor Marco Fortis, che insegna economia industriale all'Università Cattolica di Milano ed è vicepresidente della Fondazione Edison, nonché editorialista appunto del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera. Lei oggi scrive un articolo proprio sulla prima pagina del Sole, sulle idee per la ripresa. Io ricordo a chi è in ascolto, lo faccio sempre, che lei è uno dei massimi esperti proprio sui numeri, i numeri reali, le cifre vere o articolate per quello che riguarda il nostro export e la nostra capacità di essere presenti sui mercati. Allora, al di là dell'atteggiamento ideologico, va tutto male, flagelliamoci, oppure va tutto bene, madama la marchesa, lei riprende lo spunto di Guido Tabellini e Giorgio Barbanavaretti, due suoi colleghi, del 2 aprile scorso sul Sole 24 Ore, che chiedevano, attenzione, le riforme per far ripartire l'Italia si chiamano liberalizzazioni, mercati che funzionino bene, più meritocrazia, investimenti nell'istruzione e nella ricerca e migliore anche distribuzione delle risorse. Lei aggiunge anche altre proposte, ce le può ricordare in maniera sintetica a partire dal divario nord-sud? Tutte le proposte suggerite da Tabellini e Barbanavaretti sono assolutamente condivisibili, certamente anche il divario nord-sud è un problema per noi molto importante, perché abbiamo Italia nord e centrale che viaggia su livelli europei e invece un mezzogiorno che ha dei livelli di reddito pro capite, di esportazione, di attività economiche che sono inferiori a quelli di paesi come la Grecia e il Portogallo. Quindi questo è un primo grande problema che l'Italia deve prima o poi affrontare in maniera netta, così come anche il ritardo nell'energia, perché siamo il paese del G20 che ha la più grande dipendenza dall'estero per l'energia primaria. Fin tanto che non sarà realmente avviato un progetto importante nel nucleare, noi non riusciamo a ridurre le distanze che ci separano da paesi come la Francia, la Germania, la stessa Spagna, la Gran Bretagna. E poi non bisogna dimenticare il problema dell'evasione fiscale, perché gli ultimi dati dimostrano che c'è un'assoluta contraddizione tra l'elevato livello di ricchezza delle famiglie italiane e il fatto che soltanto circa l'1% dei italiani dichiari un reddito superiore ai 100.000 euro annui. Sì, è lo 0,4% superiore ai 200.000 euro lordi l'anno, di cui la maggior parte di questi soggetti sono o lavoratori dipendenti o pensionati. Perché, insomma, su questo Certo. Una riflessione va fatta. Lei però, va detto, è stato da sempre uno dei più grandi critici di questa finanziarizzazione del capitalismo, cioè di paesi che sono cresciuti, l'abbiamo scoperto negli ultimi due anni, grazie a bolle finanziarie, bolle di prodotti derivati e tossici, bolle immobiliari, appunto perché questa finanziarizzazione estrema dell'economia permetteva a tutti di prestare soldi senza avere i rischi che ne conseguono, quindi impacchettare i rischi e venderli, spalmarli sul mercato e poi dimenticarsi di questi rischi. Credo, fall swaps, strumenti derivati e quant'altro, e ricorda come, insomma, la Spagna, la Gran Bretagna e altri paesi non siano stati un esempio, l'Irlanda stessa, si è capito che la loro crescita fosse alquanto drogata. Detto ciò, perché lei ritiene che, pur con un deficit previsto quest'anno al 5% del PIL, l'Italia si è messa meglio di altri paesi? In questo mi sembra che lei ricalchi quanto detto già dal Fondo Monetario Internazionale e dall'agenzia di rating Moody's la settimana scorsa. Sul piano dei conti pubblici, in questo momento l'Italia sta seguendo una politica, a mio avviso, perfetta, nel senso che se guardiamo poi quello che è il deficit primario, quindi quello che è il deficit al netto degli interessi sul debito pubblico, addirittura siamo il paese tra i grandi paesi d'Europa e tra i grandi paesi del mondo con il più basso deficit primario, poco più dello 0,5% del PIL. Questo vuol dire che non stiamo dando fondo ai nostri conti pubblici. In fondo il nostro PIL è caduto nel 2009 del 5%, esattamente come quello della Gran Bretagna, della Germania, del Giappone, che hanno speso molto più di noi per sostenere le loro economie. Avere un'attenzione massima sui conti pubblici è fondamentale, perché il fatto stesso che noi riusciamo a rimanere fermi mentre gli altri peggiorano porterà a un miglioramento comparato della nostra posizione anche in termini di credibilità del nostro paese e quindi di maggiore fiducia che gli investitori internazionali potranno mettere nei confronti dei nostri titoli pubblici. Questo, detto per inciso, professor Fortis, nonostante gli ultimi dati abbiano visto per la prima volta da anni, dal 2001 se non ricordo male, o dal 99 per essere più precisi, scomparire l'avanzo primario, cioè la differenza tra entrate e uscite prima del pagamento degli interessi sul debito. Beh, certo, siamo in recessione, in una recessione che è la più dura degli ultimi 80 anni, quindi è chiaro che qualche scricchiolio l'abbiamo sentito anche noi nei conti pubblici, ma il fatto che oggi l'Italia abbia un deficit del 5% circa previsto nel 2010 contro deficit attesi dell'ordine del 10% degli Stati Uniti e addirittura del 14% per la Gran Bretagna, dimostra che in questo momento noi stiamo riuscendo ad uscire da questa crisi senza sfasciare i conti pubblici, mentre altri paesi stanno dando fondo a tutte le loro risorse, rischiando però di compromettere la loro crescita futura, perché prima o poi questi deficit dovranno essere riassorbiti e anche il debito pubblico di paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna dovrà essere frenato per non diventare pericoloso. Allora, vedo già che ce lo chiedete, avete ragione, la differenza tra deficit e debito spesso la ricordiamo, vedo i messaggi al 349-238-6666. Il deficit è la differenza tra quanto entra e esce, se è appunto negativa, come se fosse un bilancio familiare ogni anno, se spendi più di quello che hai incassato, che hai guadagnato. Il debito è la somma di tutti i deficit accumulati negli anni più tutti gli interessi che paghi su questi deficit, perché come una famiglia, se chiede soldi in banca poi deve pagare degli interessi alti su questo. Quindi noi abbiamo un record come debito accumulato, devo dire, soprattutto a partire dagli anni 80 in poi, debito che viaggia intorno al 110% del PIL. Il deficit, cioè quanto sforiamo ogni singolo anno, invece è appunto al 5%, un livello altissimo, sopra i parametri di Maastricht, ma come diceva lei, professor Fortis, la metà di quello spagnolo, la metà, un terzo quasi di quello britannico, che andrà al 13-14% nel 2010, un terzo di quello irlandese e anche più basso di quello francese, che quest'anno dovrebbe essere intorno all'8% come deficit. La Germania invece sarà come noi, intorno al 5%. Quindi lei dice, pur avendo un debito storicamente elevatissimo, non stiamo imbarcando rispetto agli altri paesi nuovo debito, cioè lo stiamo imbarcando di fatto, però non con una dinamica peggiore degli altri paesi, anzi più virtuosa di altri paesi. Le chiedo, questo vuol dire però che se gli altri paesi avranno, e qui veniamo ai temi dell'export, dovranno rientrare su questi deficit che stanno accumulando, cioè soldi che hanno speso più di quanto non incassassero, non possiamo attenderci molto come domanda interna in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, in Spagna, che per noi significa poi esportazioni verso Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna. Sto citando i primi quattro paesi a livello della classifica italiana, inclusa l'America, insomma i primi cinque sono Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna e Regno Unito. Quattro, anzi cinque su cinque, stanno imbarcando deficit altissimi. Certamente sarà difficile esportare verso i paesi più avanzati, più ricchi del mondo nei prossimi anni, non solo per l'Italia ma per tutti gli altri. La stessa Germania faticherà tantissimo a continuare a vendere automobili di lusso ad americani, spagnoli ed inglesi che sono pieni di debiti. Ecco perché dobbiamo concentrarci da una parte sui paesi emergenti, in particolar modo quelli asiatici ma anche quelli del Sud America, senza dimenticare il fatto che comunque i russi stanno lentamente riprendendosi dalla difficile crisi che anch'essi hanno attraversato, e anche con l'aumento dei prezzi del petrolio di nuovo i paesi arabi potranno tornare ad essere interessanti. Quindi dobbiamo cercare di controbilanciare la caduta della domanda nei paesi più ricchi, ma anche, ahimè, più, purtroppo più indebitati, con la domanda dei paesi emergenti, dei paesi che potranno tornare a crescere con l'aumento del prezzo del petrolio, che verosimilmente si verificherà con un incremento della domanda mondiale. Sì, infatti il petrolio sta già viaggiando intorno agli $83-84 al barile ed è presumibile, appunto, che dagli Emirati Arabi Uniti, che sono diventati in questi anni il nostro 16° nella classifica dei primi 20 destinatari dell'export, quindi un ruolo importante, hanno preso il posto che era 10 anni fa della Svezia e anche del Brasile, dicevo, lì potrà tornare un po' di domanda. Professor Fortis, veniamo quindi ai temi dell'export, perché in un articolo che lei pubblicò a fine dicembre 2009, lei ricordava come noi siamo i primi esportatori, cioè siamo i numeri uno in 288 prodotti a livello numero uno a livello mondiale, siamo i numeri 2 per 382 prodotti che esportiamo e i numeri 3 per 352 prodotti. Cioè, nel medagliere dell'export solo la Germania in Europa riesce a fare meglio di noi, cioè avere medaglia d'oro, d'argento, di bronzo in così tanti prodotti, e nel mondo solo gli Stati Uniti, la Cina e quindi anche la Germania vengono prima di noi. E qui si va da settori molto conosciuti, la rubinetteria, 5 miliardi e 600 milioni di euro di export ogni anno, gli oggetti di gioielleria, 5,5, piastrelle, 5 miliardi di export, tubi e profilati di ferro, anche lì 5 miliardi, cuoio e pelle, 4 miliardi e mezzo, calzature stivali, 3 miliardi e mezzo, barche e yacht, 2 miliardi e mezzo, i mobili, 2 miliardi, le paste alimentari, 2 miliardi, ma poi ci sono anche settori che alcuni insomma possono sorridere, ma la carta igienica, noi esportiamo 500 milioni di carta igienica all'anno, cioè, ci ringrazieranno le parti meno nobili di tutto il mondo, ma insomma allo stesso modo abbiamo anche le macchine molatrici, quasi 1 miliardo di export, i beni per il divertimento, il tessile abbigliamento, le tecnologie per gli alimentari, macchine per la panificazione, esportiamo 620 milioni di euro ogni anno di macchine per panificare, per fare il pane. Allora, visto che siamo così bravi in tanti settori, le chiedo, siamo pronti per il nuovo ordine mondiale dal punto di vista economico, visto che lei ricordava che tanto questi paesi, che per noi erano i numeri 5, per un po' di anni avranno un bel po' di problemi quanto a conti pubblici? Certamente possiamo dire che siamo pronti, nel senso che ci siamo sempre più specializzati negli ultimi 10 anni in prodotti di nicchia. Quelli che lei citava non sono delle categorie aggregate di prodotti, ma sono singoli tipi di prodotti. Ne abbiamo censiti più di 5.500 attraverso le banche dati delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e come lei ricordava, in oltre 1.000 di questi prodotti siamo primi, secondi o terzi esportatori mondiali. Il fatto di produrre meccanica di nicchia, di esserci spostati sulle fasce di più alto valore aggiunto nei settori tradizionali per la persona e la casa, come la moda e i mobili, fa sì che ci rende interessanti per paesi come quelli emergenti, in cui si punterà sempre di più a prodotti di relativo lusso dal lato dei beni di consumo e prodotti che abbiano delle tecnologie vincenti. Noi non abbiamo le tecnologie che hanno i grandissimi gruppi tedeschi o francesi, tecnologie nucleari piuttosto che le grandi tecnologie dell'industria automobilistica tedesca, diciamo delle meccaniche di nicchia che fanno sì che le nostre imprese siano leader in tantissimi comparti. E proprio approfittando di questa specializzazione che potremmo cercare di avere un ruolo nel futuro scenario globale, rafforzando, a mio avviso, questo è importante, la forza delle medie imprese strutturate del cosiddetto quarto capitalismo e possibilmente anche migliorando la nostra capacità di farci rappresentare da qualche grande gruppo della grande distribuzione all'estero. Allora, adesso c'è il metro pubblicità, poi vorrei capire però anche qualche, e sottolineare anche qualche problema, perché se cambia la geografia dei paesi verso cui esportiamo, per noi le cose un po' si complicano, perché sono più distanti, sono più grandi, serve più massa critica. E rispondere anche a qualche sms che dice, ma come, state dicendo che le nostre finanze sono messe bene, ma chi l'ha detto? Abbiamo detto che il debito è al 110% del PIL, è il più grande in Europa, abbiamo solo detto che il peggioramento dei conti pubblici in questi 2 anni in Italia è stato inferiore al peggioramento di altri paesi, qui parlano le cifre. Comunque, meteo pubblicità 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere questo approfondimento sul conti pubblici e anche politiche per la ripresa. Alla luce dei dati di cronaca di oggi, petrolio sempre forte, materie prime sempre in aumento, rame record, traffico autostradinamento, cioè per quello che riguarda il trasporto merci, cioè c'è una ripresa in corso distante da noi. Confermo quello che abbiamo detto sui deficit. L'Italia ha un deficit altissimo, avrà nel 2010 5%, ma ce l'avrà come la Germania, 5% anch'essa, molto più bassa della Francia, che sarà l'8,2%, la metà della Spagna al 10%, un terzo dell'Irlanda al 15% e quasi un terzo della Gran Bretagna, che avrà un deficit al 13%. Ecco perché abbiamo detto restiamo fermi nei nostri conti pubblici mentre gli altri peggiorano. Detto questo, continuiamo a parlarne con Marco Fortis, anche perché oltre ai settori in cui siamo leader, vedo molte domande, io ho citato i principali, però pensate che noi esportiamo, diciamo, nella moda 18 miliardi di euro ogni anno, di cui 2 miliardi e 6 solo di borsette e cinture di pelle, 2 miliardi di esportazione ogni anno di occhiali da sole. Noi siamo anche fortissimi, va bene, le macchine per biancheria si sapeva, 2 miliardi all'anno, ma esportiamo anche 770 milioni di euro ogni anno di mele fresche, cappe aspiranti, 860 milioni di euro di esportazioni, materie plastiche e gomma, 1 miliardo di euro di lastre e foglie e 670 milioni di euro di nastri e pellicole in plastica che esportiamo ogni anno. Allora, abbiamo situazioni, quasi 1000 posizioni in cui siamo numero 1, numero 2, numero 3, 1000 prodotti. Però la mappa delle nostre esportazioni sta cambiando, come ci ricorda questa scheda. C'erano una volta il Canada, la Danimarca, il Brasile ed Hong Kong. Oggi ci sono la Cina, la Russia e la Polonia. La storia di come sono cambiate le destinazioni dell'export italiano negli ultimi 10 anni rispecchia il mutamento degli equilibri economici globali, con qualche esito scontato, ma anche qualche sorpresa. In vetta cambia poco. I primi 3 clienti del Made in Italy rimangono infatti nell'ordine Germania, Francia e Stati Uniti, seppure con quote di mercato più basse rispetto al 1999. Subito dopo la Spagna, che ha superato la Gran Bretagna in quarta posizione, e più giù, sesta come 10 anni fa, la Svizzera. Dopo iniziano le novità. Se era ampiamente prevedibile l'ingresso in classifica della Cina, attualmente al 12° posto con una quota di mercato del 2,2%, assai meno scontato risulta l'exploit della Polonia, che si piazza all'8° posto e verso cui si dirige il 2,7% del nostro export. Tra le new entry dell'ultimo decennio c'è poi la Russia, 11ª oltre Repubblica Ceca e Slovenia, rispettivamente 19ª e 20ª. Sono invece scivolati fuori dai primi 20 compratori di prodotti italiani il Canada, la Danimarca, Hong Kong e, un po' a sorpresa, il Brasile. Diminuisce infine il peso relativo di Giappone, Olanda e Portogallo, mentre hanno guadagnato importanza e posizioni Turchia e Romania. Allora, professor Fortis, al di là del fatto che la classifica si è mossa praticamente pochissimo nei primi 7 posti, Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna, Gran Bretagna, Svizzera e Belgio, siamo sempre lì, abbiamo visto crescere molto la Polonia, l'ingresso che prima non c'era 10 anni fa degli Emirati Arabi Uniti, della Cina, come era presumibile, della Repubblica Ceca, della Slovenia, il Giappone è calato molto, il Brasile ha anche calato molto, Danimarca e Canada sono scomparse. Qui, insomma, stiamo parlando di reti lunghe, di paesi grandi e distanti in molti casi. Noi siamo pronti, le ripeto la domanda perché non sono così convinto, per le reti lunghe, cioè finché c'era l'Europa come nostro orizzonte ce la facevamo. In questo momento le nostre imprese si sono già da qualche anno attrezzate perlomeno per affrontare il mercato dell'Est Europa. L'apertura dell'Unione Europea ai paesi dell'Est è stata anche per l'Italia importante, sia sotto il profilo della domanda nuova che questi paesi hanno portato verso i nostri prodotti, sia anche perché questi paesi hanno rappresentato dei territori in cui le nostre imprese hanno delocalizzato delle attività produttive e svolgono oggi delle attività anche di export estero su estero, mm-hmm. che sono molto importanti. Ci sono dei paesi che sono diventati tra i primi paesi esportatori al mondo di alcuni beni, non perché siano stati capaci loro di farli, ma semplicemente perché alcune nostre imprese hanno delocalizzato lì delle attività produttive. Quindi l'Est Europa lo presidiamo benissimo con l'attuale nostra struttura produttiva che ripeto soprattutto nelle medie imprese strutturate, quelle che analizzano normalmente il centro studi di Mediobanca assieme ad Unioncamere, sono imprese capaci di andare su questi mercati. La Cina certamente è un po' più lontana, ma non è che in questi paesi anche dell'est asiatico non riusciamo ad arrivare, come dimostra la crescente capacità di esportazione verso questi paesi. Ricordo che nel primo bimestre di quest'anno le nostre esportazioni verso la Turchia sono aumentate del 50%, sono aumentate del 30% quelle verso l'India, del 40% verso i paesi del Mercosur e anche del 20% verso l'India. Questo dimostra che le nostre imprese, se c'è domanda, la sanno cogliere. Il vero problema sarà purtroppo sopportare il rallentamento della domanda nei paesi più ricchi e più indebitati di cui abbiamo prima parlato. Ecco, mi sembra che lei però non sia così eccitato dal tema delle piccole dimensioni delle imprese italiane, ma non, e soprattutto della necessità, come abbiamo ricordato la settimana scorsa, di fare rete. C'è stato un primo accordo anche con il gruppo bancario Barclays da parte di Confindustria per riuscire a dire: vabbè, se ti metti assieme, se fai rete, se hai determinate caratteristiche, godi di un voto, di una certificazione migliore, per superare il problema dimensionale, che chiaramente non può essere superato obbligando le imprese a vendere, a fondersi, a acquisire soci. Beh, sia chiaro, noi dobbiamo certamente spingere affinché le nostre imprese più piccole diventino un po' più grandi, ma le nostre imprese medie, io ne conosco centinaia, sono imprese che fatturano dai 30 milioni di euro di fatturato in su, hanno 80-90 mercati in cui esportano e che quindi non hanno nessun complesso di sudditanza verso i mercati, anche quelli più lontani. Quello che dovremmo cercare di fare è di stimolare alcune di queste medie imprese a diventare più grandi, non tanto aprendo il proprio capitale ad altre imprese o dei fondi, perché come sappiamo gli imprenditori italiani non amano molto condividere la gestione, il potere, il comando dell'azienda, quanto piuttosto aiutarle a fare delle acquisizioni all'estero. Ci sono tantissime imprese nel Nord America, ma anche in altri paesi d'Europa, che in questo momento sono in vendita, c'è una crisi che ha colpito anche gli altri, non soltanto noi, e le nostre imprese medie più forti potrebbero approfittare dell'occasione per espandersi all'estero con acquisizioni. Queste acquisizioni potrebbero essere, queste sì, gestite in tandem dai nostri imprenditori assieme a dei fondi, a delle organizzazioni anche governative, questi fondi per le piccole e medie imprese che in questo momento stanno partendo con grande capacità, proprio per rafforzare la nostra capacità di stare sui paesi stranieri anche con attività produttive e magari acquisendo anche dei brevetti. Ecco, su questo vedo che molti messaggi, sì, io so che lei insomma è una persona che guarda la parte del bicchiere mezzo pieno, questo lo apprezziamo molto e ripeto, forse sulle reti qualche investimento in più sarà necessario. Vi anticipo che poi vi sarà una missione, per esempio in questo senso, di Confindustria molto importante, Confindustria, banche, governo italiano a fine maggio in Cina, anche in occasione dell'Expo di Shanghai, di cui l'Italia è paese di riguardo, visto che poi ospiteremo noi l'Expo e Radio 24 trasmetterà anche dalla Cina. Ancora sulle reti vedo molti messaggi, la possibilità di essere presenti in quei paesi richiede notevoli investimenti, sì, oppure aggregazione di distretto. Una domanda che ci arriva da molti ascoltatori riguarda invece la recente legge sul Made in Italy, visto che io l'ho presentata, perché è vero, come uno dei maggiori esperti dei numeri veri sul Made in Italy, noi abbiamo espresso tutto il nostro scetticismo e perplessità, perché una legge che va a dire cos'è Made in Italy, se tu hai due parti della produzione nel tessile, abbigliamento e anche nell'arredamento, due parti devono essere fatte in Italia, rischia poi di creare un effetto boomerang. Ci hanno criticato moltissimi ascoltatori, vorrei sapere che ne pensa lei. Credo che sia innanzitutto importante che noi spingiamo affinché vi sia una norma europea sul Made in, in modo particolare che sia marcato tutto quanto entra dal resto del mondo in Europa, per evitare che vi siano delle informazioni scorrette nei confronti di consumatori che comprano magari prodotti che vengono dall'estremo oriente credendo che siano europei o italiani. Questa è la prima cosa che bisogna fare. La recente normativa italiana in qualche modo rappresenta anche un pungolo per l'Unione Europea, che deve prima o poi decidersi a fare qualcosa, perché questo tema del Made in europeo è ormai da alcuni anni all'ordine del giorno, ma non viene mai affrontato in maniera decisa. E però quella normativa italiana è anche una normativa che deve essere perfezionata, perché così come è stata creata adesso, per esempio, è sufficiente che due fasi di lavorazione, che sono il tessile e abbigliamento, siano fatte all'estero per poter marcare un prodotto Made in Italy. Quindi se uno fa i filati e i tessuti in Italia, Italia e poi fa il resto del prodotto all'estero, può marcarlo Made in Italy. È chiaro che questa non è una cosa seria, le fasi di lavorazione dovrebbero essere aumentate perlomeno per avere una qualche minima credibilità e affinché effettivamente la fase di maggiore trasformazione del prodotto sia realmente fatta in Italia. Sì, io dico paradossalmente, se un cinese o un indiano fa le fasi più importanti in Cina e in India, poi viene qua e fa l'impacchettamento e una fase terminale, può scrivere Made in Italy. Questo discorso, quindi bisogna quindi, sicuramente attenzione, portare ad almeno tre in molti dei prodotti che sono stati coperti da questa legge, le fasi produttive devono essere fatte in Italia per poter effettivamente mettere con un qualche significato la parola Made in Italy sui prodotti. Sì, io dico o tutto o la maggior parte, oppure meglio nemmeno tentarci. Sono d'accordo con lei invece che poi la normativa deve essere europea e anche i paesi del nord Europa che sono importano nel tessile abbigliamento dalla Cina, dalla Turchia, da altri e dall'India, devono trovare una soluzione su questo, perché non è pensabile che poi l'Europa si faccia male da sola. Grazie e buon lavoro a Marco Fortis, che appunto è insegna alla Cattolica di Milano Economia Industriale ed è editorialista del Sole 24 Ore, oltre che vicepresidente della Fondazione Edison. Buonasera. E allora, molti messaggi anche sul tono, per secondo alcuni troppo ottimistico sui nostri conti pubblici. Vabbè, ne parliamo dopo il traffico e poi la borsa che è chiuso positiva, mentre l'indice Dow Jones è vicinissimo agli 11.000 punti, è soglia psicologica, quelle che aveva prima del grande crack settembre 2008. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, di nuovo in diretta, vedo che insomma alcuni scrivono: sembri una sirena del mare ma non mi incanti, non ho veramente le fattezze della sirena. Abbiamo fatto decine, continuiamo a fare decine di puntate sui problemi delle piccole imprese, domani sarà la volta degli artigiani, delle piccole imprese, dei rapporti con le banche, del fatto che sono sottocapitalizzate, che la crisi morde in questo momento forse in maniera più viscida rispetto all'anno scorso perché la cassa integrazione è aumentata. In alcuni casi rischia di finire, che la ripresa è debole, fragile e quant'altro. Se per una volta ricordiamo anche i punti di forza nel nostro Made in Italy, nell'export, e che oggettivamente noi, ministro Tremonti, non lo critichiamo né applaudiamo, diamo i dati. Allora, se oggettivamente il nostro deficit è a un livello basso quest'anno, pur essendo alto in termini assoluti, rispetto a quello degli altri paesi europei, vuol dire che noi, la nostra situazione resta pesante sui conti pubblici ma non è peggiorata. La situazione degli altri paesi invece era migliore della nostra ma è nettamente peggiorata, e c'è chi teme che arriveranno al 100% di debito nel 2020. Sulla Grecia dite che è tecnicamente fallita perché ha il deficit al 14%, beh anche la Spagna ce l'ha, per cui insomma non è che sia tecnicamente fallita la Spagna. Comunque adesso la borsa e poi le materie prime. 349-238-6666 per gli sms. Allora, la notizia più forte mi sembra questa quota di Wall Street, che pur essendo invariata è a 10.960 punti, che vuol dire un passo da 11.000 punti, che era il livello di inizio settembre, metà settembre, oscillava intorno a quella cifra. Prima che esplodesse tutto, prima di Lehman, prima del crollo dei mercati consecutivo per intere sedute, un livello importante quindi anche da un punto di vista tecnico. Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Beh, un livello a cui i mercati guardano con attenzione. Milano ha chiuso con un più 0,6%, come Parigi e Londra. Francoforte più 0,3%, l'America punta invariata, euro debole a 1,3380 nei confronti del dollaro e 1,4319 nei confronti del franco svizzero. Tenaris, che immagino si avvantaggi di un petrolio a 87 dollari al barile, più 3,36%. Sì, Tenaris è stata la... E Saipem, scusami anche. Certo, tutto il comparto energetico è stato ben comprato in tutta Europa, il sottoindice di settore a livello continentale ha guadagnato il 2,43%, sono proprio i corsi del greggio che sostengono il comparto. Il petrolio ha pochi minuti fa toccato un massimo oltre gli 87 dollari al barile, ovviamente a sostenerne le quotazioni sono le notizie rasserenanti che provengono dal fronte macroeconomico anche dagli Stati Uniti. Ricordiamo venerdì i dati sulla disoccupazione che hanno fatto segnare la maggiore crescita di posti di lavoro negli ultimi 3 anni, hanno spinto la rialzo delle quotazioni e quindi quelle di tutti i titoli legati al settore energia. Tra questi Tenaris ha guadagnato il 3,36%, ma anche, come dicevi tu, Saipem oggi oltre il 2%, e anche la stessa Eni ha chiuso in rialzo dello 0,68%. Quindi effetto petrolio sui titoli legati all'energia. Abbiamo parlato in apertura del dato diffuso da Atlantia, cioè la società Autostrade per l'Italia, del traffico, soprattutto quello delle merci sulle autostrade, più 2% quasi nei primi 3 mesi del 2010 rispetto a un anno prima, che vuol dire che sta ripartendo. Anche qui sono indicatori empirici, indiretti, insomma, sta ripartendo l'economia, seppur lentamente. Il titolo se ne è avvantaggiato, per inciso? Rialzo dello 0,68%, niente di particolare, ma comunque poco sopra la performance del listino. E come dicevi tu, sono stati proprio i dati sull'incremento del traffico nel primo trimestre dell'anno che hanno sostenuto le quotazioni. Ancora tra i titoli: Prysmian più 2,21, Fiat più 2%, Parmalat più 1,60, Buzzi Unicem più 1,35. Luxottica più 1,20, come Exor, Mediaset più 1,1, Autogrill più 0,90. Chi va male: Mediolanum meno 1,20, Popolare Milano meno 1,17 e ancora Impregilo meno 1%. Mentre tra i migliori e peggiori, sospesa oggi per gran parte della seduta Banca Intermobiliare, perché Veneto Banca ha lanciato un'offerta, ho capito bene? Sì, esattamente. CSP più 13%, il migliore, e poi Uniland più 5,37%, il peggiore, Filatura di Pollone meno 6,40%, Fintel Energia meno 7,6% e Cicolella perde qualcosa, meno 4,22%. Allora, vorrei conoscere anche il dato di Fastweb, dopo che si è allontanata l'ipotesi di commissariamento, si è sospeso infatti il numero 1 Stefano Parisi, e se ne beneficia anche Telecom Italia. Sì, per quanto riguarda Fastweb, i titoli sono stati ben comprati questa mattina fin dall'avvio della seduta. Al termine della giornata il titolo ha guadagnato il 5,1%, chiudendo a 15,04 euro. Ovviamente le quotazioni hanno beneficiato della notizia comunicata venerdì che la società ha raggiunto un accordo con i PM della Procura di Roma per scongiurare l'ipotesi di commissariamento, un accordo che è arrivato appunto grazie tra l'altro all'autosospensione dell'amministratore delegato Stefano Parisi. Ovviamente il mercato ha festeggiato questa notizia. In avvio di seduta la notizia aveva spinto anche Telecom Italia, dato che un analogo accordo è stato raggiunto anche da Telecom Italia Spar, con la controllata del gruppo che va anch'essa a rischio di commissariamento. Le quotazioni hanno poi ritracciato, Telecom ha chiuso comunque in territorio positivo con un lieve rialzo dello 0,09%. Allora, bene Fiat, vedo che sul settore auto comunque il governo francese, che è il primo azionista del gruppo Renault, ha confermato che c'è un avvicinamento in corso con il gruppo tedesco Daimler. Chissà se si arriverà lì a un accordo vero e proprio che cambierebbe anche il panorama europeo tra Daimler e quindi Mercedes e Renault. Confermato appunto dal governo francese, i dettagli della partnership domani a Bruxelles, leggo l'agenzia assieme a voi. Ancora STMicroelectronics e Impregilo, rispettivamente. STMicroelectronics oggi ha ripreso, è andata bene, poi nel finale un po' ritracciato, mentre Impregilo meno 1%. Sì, per quanto riguarda STMicroelectronics è stata tra i migliori della seduta fin dal mattino, e ormai tra l'altro alcune sedute che i titoli vengono ben comprati, già venerdì scorso è stata tra i migliori. In tutto questo periodo ST sta beneficiando delle notizie, delle stime diffuse da alcuni concorrenti che lasciano intravedere un andamento del mercato di riferimento migliore delle aspettative. Oggi sono le stime di Samsung Electronics che hanno sostenuto le quotazioni della società, che ha chiuso in rialzo del 2,33% a 7,67 euro. Per quanto riguarda Impregilo, non sono invece segnalate motivazioni particolari, se non quella che il titolo viene da una settimana quasi ininterrotta tra in una sosta di rialzo, e quindi oggi sono scattati alcuni realizzi con una flessione dell'1,07%. Grazie Paolo Paronetto, Radio Corri sulle 24 ore. Poi adesso GR, poi parliamo anche del Baltic Index, in quanto costa trasportare le merci, e della vicenda della borsa italiana, che insomma ha perso il ruolo che aveva nel consiglio di amministrazione della borsa, nella fusione tra borsa italiana e borsa britannica. C'è chi parla di colonizzazione britannica del mercato finanziario italiano. 349-238-6666 per gli sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso, come promesso, parleremo di questo sviluppo nel matrimonio, secondo alcuni non consumato, tra la borsa italiana e la borsa britannica. Devo dare alcune risposte però velocemente a alcuni sms arrivati al 349-238-6666. Volete sapere come si è mosso il Baltic Dry Index, che è quell'indice che misura quanto costa noleggiare i cargo per trasportare le merci? È un indicatore indiretto di ripresa o recessione economica. È intorno ai 3.500 punti, leggermente sceso sotto a 3.000 punti, comunque su livelli buoni. Pensate che nel periodo peggiore della crisi era sceso a 800 punti. Certo, siamo ancora distanti dal livello di 11.000 punti toccato nel maggio del 2008, per cui quel livello pre-crisi, però insomma ha recuperato qualcosa. Ancora sulle domande che ponete, di nuovo la notizia sugli stipendi dei trader della finanza americana. Allora, secondo il Wall Street Journal, nel 2009 in America sono stati tagliati i compensi degli amministratori delegati delle principali società finanziarie americane, anzi delle prime quotate, sono scesi del 15%, con una media a manager di 9 milioni e mezzo di dollari di stipendio per gli amministratori delegati delle principali società quotate in America. Ma sono saliti tantissimo i compensi e i benefit dei traders, di chi opera tutti i giorni sui mercati, fa compravendita. Le 38 maggiori società finanziarie a Wall Street hanno sborsato complessivamente 140 miliardi di dollari per bonus e benefits ai loro manager, una cifra più alta anche del 2007, per cui nel 2009, anno in cui si era la piena crisi finanziaria, hanno guadagnato più che nel 2007 e chiaramente anche nel 2008. E volete la notizia anche sul compenso di Massimo Capuano? Io direi di iniziare proprio il tema, e cioè che cosa sta succedendo di questo matrimonio celebrato 2 anni fa, nel giugno del 2007, quindi quasi 3 anni fa, scusate, tra la borsa italiana e il London Stock Exchange, quindi la borsa britannica. Allora, avrete letto sui giornali, insomma, dopo le dimissioni di Massimo Capuano e l'ingresso di Raffaele Gerusalmi, si è scoperto che praticamente nel board, nel consiglio di amministrazione di questo nuovo soggetto, non siederanno più gli italiani, prima rappresentati dallo stesso Capuano. E da più parti si è detto, questa insomma è una sconfitta per l'Italia, per questo matrimonio in cui noi portammo anche una dote consistente come borsa italiana. Allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il direttore di Radio Cori, Sole 24 Ore, l'agenzia di stampa del gruppo Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Buonasera. Buonasera a tutti. Per far capire di che cosa stiamo parlando, abbiamo preparato una scheda che ricorda come andò a suo tempo, nel giugno 2007, questa fusione. C'erano vari pretendenti, varie spose o sposi pretendenti per la borsa italiana, tra cui l'altro circuito Euronext. Si decise alla fine per la fusione con Londra. È stata una cosa assolutamente di comune accordo, senza nessuna tensione, contrasto, quindi è stata una combinazione di interessi e di opportunità che ha visto sposare le due esigenze, quindi senza nessun problema. La diplomazia dell'ormai ex amministratore delegato della Borsa Italiana e vice amministratore delegato del London Stock Exchange, Massimo Capuano, non può celare il fatto che l'unione tra Piazza Affari e la City sia sempre meno un'aggregazione e sempre di più un'acquisizione tout court. Con l'uscita di scena di Capuano nel consiglio del London Stock Exchange non siederà infatti nessun rappresentante italiano, alla faccia delle iniziali promesse inglesi che al momento delle nozze avevano persino prospettato la possibilità di una futura guida italiana del gruppo. Le borse di Milano e Londra sono infatti una cosa sola dal giugno del 2007, quando la City e Piazza Affari danno il via libera alla fusione, da cui nasce un gruppo da 5,7 miliardi di euro. Ora come allora, il confronto dimensionale tra le due piazze finanziarie è impari. A Londra sono quotate oltre 3.000 società, a Milano appena un decimo, e la capitalizzazione della borsa italiana è un quinto rispetto a quella della City. Ma a differenza di quella londinese, nel 2007 la borsa italiana ha i bilanci in ordine con 63 milioni di utile e porta in dote la ricca piattaforma MTS su cui vengono scambiati i titoli di Stato. Così i soci di Borsa Italiana, principalmente Intesa San Paolo, Unicredit e Monte dei Paschi, ottengono dalla fusione azioni del nuovo gruppo per un valore di 1,6 miliardi di euro, 10 volte il valore del loro investimento iniziale, e oggi conservano complessivamente in portafoglio il 18% del gruppo post-fusione. Non è una quota che consente di dettar legge, ma in un azionariato frantumato come quello del London Stock Exchange potrebbe avere un peso specifico importante, sufficiente per arginare le mire egemoniche degli inglesi e per occupare qualche poltrona importante nel consiglio di amministrazione. Purtroppo, la compagine italiana non brilla per coesione e il recente passaggio di testimone tra Capuano e Gerusalmi è solo l'ultima tappa della progressiva emarginazione della presenza italiana. Allora, questa la vicenda e insomma le accuse che abbiamo letto sui giornali, Fabio Tamburini, in questi giorni, di insomma, più che un matrimonio, un ratto delle Sabine. Vorrei sapere se sei d'accordo, poi dopo il traffico vediamo anche altri aspetti. Intanto un primo giudizio complessivo su quest'ultimo sviluppo. Sono talmente d'accordo che l'ho scritto sabato scorso nella rubrica che tengo sul quotidiano Sole 24 Ore, e non era un matrimonio, è stato un matrimonio farlocco, che tradotto in altri termini significa che a parole è stata annunciata una grande alleanza, nei fatti si è trattata di un'acquisizione della borsa londinese di Piazza Affari. Allora, il traffico, poi cerchiamo di capire che cosa può comportare per il sistema Italia, perché insomma noi abbiamo il 18% della borsa che è nata dalla fusione tra Londra e Milano. Prima di noi c'è la borsa di Dubai che ha il 21%, ci sono vari investitori istituzionali britannici che hanno 18%. Noi, se facessimo un pacchetto di mischia, potremmo comunque essere saremmo il terzo azionista di questa borsa e potremmo far sentire questa voce. Ecco perché sembra strano che non vi sia nessun membro italiano nel consiglio di amministrazione di questa società, ed ecco perché alcuni parlano di colonizzazione. Alle risposte e altre domande dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, al direttore di Radio Core sulle 24 ore, Fabio Tamburini, la seguente domanda. Abbiamo capito che quello che è stato spacciato nel 2007 per un matrimonio si è rivelato in realtà un acquisto, una cessione della borsa italiana alla borsa britannica. C'è chi ha detto, ma insomma c'erano degli interessi, Capuano puntava a fare il numero uno della nuova borsa nascente. Sicuramente non ne esce danneggiato lo stesso Capuano, perché la cifra ancora non l'abbiamo, ma da quello che riporta anche la tua agenzia, Fabio, insomma, lui ha avuto compensi e bonus milionari, migliaia di azioni del London Stock Exchange e poi la casa a Londra. Ti chiedo, secondo te, perché i vari soci italiani, che appunto Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi, arrivano al 18%, non hanno in questi tre anni cercato di premunirsi, di mettere dei paletti, di fare in modo che non si arrivasse poi a un nuovo consiglio di amministrazione senza nessun italiano presente? C'è una riflessione da fare sul passato e un auspicio per il futuro. Sul passato la riflessione da fare è molto semplice. Attualmente i soci italiani hanno il 18%, ma appena fatta la fusione avevano molto di più, avevano quasi il 30%, e in quel momento c'è stato un progetto, siamo nel 2008, un progetto importante, un progetto che poteva immaginare di aumentare ancora la quota dei soci italiani. Potevano scendere in campo le fondazioni, si è parlato della Fondazione CRT di Torino, perfino della Caripro, della Fondazione del Monte dei Paschi. Si siccome c'erano importanti pacchetti di titoli del London Stock Exchange che erano in vendita, bastava che le fondazioni italiane acquistassero quei titoli che, sommati al quasi 30% che avevano le banche italiane in quel momento, avrebbero portato i soci italiani ad avere addirittura il controllo del London Stock Exchange. Era una possibilità. Questa possibilità gli inglesi ovviamente non la volevano e hanno fatto in modo di esercitare una sorta di moral suasion per la quale la cordata italiana si è disfatta come neve al sole. È proprio il caso di dire che una volta che uno prende un braccio, dopodiché prende tutto. E così si sono comportati gli inglesi, scongiurati con una moral suasion che si è verificata efficace, scongiurata la possibilità che i soci italiani andassero perfino in maggioranza, bene, un po' alla volta hanno negato il principio dell'alternanza, perché il capuano o chi per lui doveva avere la guida della nuova entità nata dalla fusione tra la borsa inglese e quella italiana, ma così non è stato, e quindi quando è stato cambiato il management non è stato nominato un italiano, ma è toccato addirittura a un francese. Bene, nel frattempo le quote dei soci italiani, delle banche italiane azioniste del London Stock Exchange sono diminuite, sono scese al 18%. Bene, proprio per evitare che a questo punto la presenza italiana sparisca del tutto, l'auspicio è che le quote italiane vengano in qualche modo raccolte in un patto, in un accordo che serva ad aumentarne quanto è rimasto della loro forza d'urto, che comunque non è poco. Esatto, perché il 18%, ripeto, nell'azionariato della Borsa di Londra e della Borsa di Milano, perché le due sono già assieme, sono fuse, significa essere dopo Dubai, prima di Qatar Investment e di altri soggetti, essere il terzo azionista. Molti di voi fanno la domanda delle domande, adesso ci arriviamo, e cioè, ma che cosa cambia per noi? Perché uno potrebbe anche dire, vabbè, ma nel libero mercato, se poi gli inglesi sono stati bravi, hanno tenuto botte e poi si sono presi anche il resto, a noi che cambia come paese e come società quotate e come possibilità di investire in borsa? Partiamo da questa, poi ti faccio l'ultima che riguarda anche, insomma, l'atteggiamento della Banca d'Italia da un lato e del libero mercato inglese dall'altro. Che cosa cambia per le società italiane che sono quotate, che vorrebbero quotarsi, per gli azionisti, per chi vuole investire in borsa, per il sistema paese nell'avere la testa, le braccia, tutto praticamente a Londra invece che a Piazza Affari? E secondo me cambia, perché il ruolo della borsa è in parte privato e in parte pubblico. È chiaro che la borsa è un posto dove, come da tutte le altre imprese, si guarda i profitti. In questo senso la borsa è un'entità privata, ma è anche un'entità pubblica, perché la borsa ha un ruolo chiave nello sviluppo del sistema e di conseguenza mantenere il controllo della borsa io credo che sia una cosa importante. Insomma, è un altro pezzo d'Italia che se n'è andato. Io penso che negli ultimi 10-15 anni se ne siano andati persi un bel po' di pezzi del sistema. Quindi io credo che quando si parla di borsa bisogna tenere conto anche che c'è anche una parte pubblica. Quando si parla di borsa è la parte della vigilanza, dei controlli, di molla per lo sviluppo del sistema. Ecco, io credo far sì che quanto resta dell'azionariato italiano nel London Stock Exchange non vada perduto. Allora, mentre conferma chi ce lo chiede al 349-238-6666 che al tempo del matrimonio funzionò un po' come diciamo, a fine 800, quando la ricca borghesia faceva sposare i suoi figli con i nobili non c'avevano una lira, portavano in dote il titolo e la borghesia portava i soldi. Allora, il nobile era la borsa britannica prestigiosa, la City, London Stock Exchange, ma aveva debiti per 300 milioni di euro nel 2007, noi avevamo utili come Piazza Affari, come borsa italiana, per 63 milioni di euro, eravamo quelli coi soldi ricchi e loro erano quelli di prestigio. Ti pongo l'ultima domanda. La Banca d'Italia in un comunicato ha fatto sapere che non tutto è perduto, cioè che ci può essere ancora spazio, margine di manovra, perché i vari soci italiani si uniscono, facciano appunto pacchetto di mischia e facciano sentire la loro voce. Tu nel tuo articolo del 3 aprile su Sole 24 Ore facevi notare del resto che in questi paesi anglosassoni, che sono la patria del libero mercato, quando tocchi i loro pezzi poi diventano tutti un po' più statalisti, nazionalisti, vale per la Gran Bretagna, vale per gli Stati Uniti ed altri paesi. Quali sono i margini in questo momento, visto che la Banca d'Italia su questo ha sentito anche la necessità di intervenire? A me piacerebbe che i soci italiani a questo punto provassero ad entrare anche a gamba tesa. Ah. Ma insomma, ma perché noi dobbiamo essere sempre i primi quando si tratta di vendere dei pezzi di sistema e dobbiamo invece farci chiudere la porta in faccia quando c'è la possibilità che i capitali italiani abbiano un ruolo da protagonista? Questo è successo nel caso del London Stock Exchange. Prima si è teorizzato, anche per colpa degli azionisti italiani o di almeno di una parte di loro e forse anche di una parte del management, si è teorizzato un matrimonio. In realtà il matrimonio non era tale, era un matrimonio farlocco, era una acquisizione mascherata. Poi ci siamo fatti esercitare una moral suasion per cui potevamo conquistare il controllo grazie al capitale delle fondazioni e così non è stato. E adesso, santo Dio, almeno che quel 18% che è rimasto di capitale si unisca pronto ad entrare a gamba tesa e si dicano agli inglesi che i posti nel consiglio di amministrazione sono dovuti, non sono un loro regalo. Sono dovuti. Dopodiché è chiaro che la borsa londinese è meglio della borsa del Burundi e di conseguenza tutto sommato sì, anche se molto finanziarizzate è un po' sofferto. Invece concordo pienamente con te quando dici attenzione alla borsa, lo spiego anche a chi scrive, non è solo il luogo dove chiaramente avvengono gli scambi, i titoli sono quotati, i valori, ma è anche in molti casi un volano per l'economia di un paese. Pensate al ruolo che ha svolto in maniera anche meritoria la borsa italiana nell'andare in giro con i roadshow a cercare di trovare in questi anni aziende che avessero voglia di quotarsi, aziende con bilanci buoni, con massa critica. La borsa è anche il luogo in cui un gruppo medio, non piccolo, almeno medio grande, riceve e trova i capitali. Per cui insomma, se poi tutta la selezione la devono fare gli inglesi, che magari riescono a prediligere soprattutto società finanziarie meno società manifatturiere, non so quanto ci guadagniamo noi come italiani. Grazie al direttore di Radio Colle Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Grazie a voi. Ed è veramente tutto per questa puntata. Avevo promesso un approfondimento sulle materie prime, era una promessa da marinaio, non ci stiamo, ma lo facciamo domani. Domani parleremo anche degli artigiani, delle difficoltà del mondo dell'artigianato. In questo modo rispondo anche a chi ci sollecita a toccare i temi dei piccoli, dei piccolissimi in estrema difficoltà, e parleremo delle materie prime, visto che non c'è solo un petrolio che viaggia a $87 al barile, ma anche un rame ai massimi da quasi due anni, sopra gli $8,000 a tonnellata, e l'acciaio molto forte. Insomma, tutta domanda che arriva dall'est del mondo, intesa come Cina, India e Brasile. Non, in quel caso non è est, ma è ovest, ma insomma, non certo dall'Europa. Per ora è tutto. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.